qualcuno c'è 10? Cicco, canale 10, cicco. Oggi presto, le immagini sono in mutande, sono in mutande, basta, non c'è altro. Sono tornati da Shan e da Decathlon, sono andato a vedere queste maschere famose, ma non mi ha ispirato molto, anzi non mi ha ispirato niente, infatti mi sono risparmiato 30 euro in quel viaggio. E tu oggi hai lavorato? Esci, esci, stamattina. Adesso la traduce a scoprire un guardo a posto. Guardo a posto, c'è gente. Mi sono partita. Chiediamo tutto. Perché lasciamo sì, una bella giornata anche oggi. Bella era. Porca miseria, so che dovevamo fare roba, prendere varie cose alla farmacia di... Abbiamo fatto ricariche telefoniche, è andata all'OVS, mamma, Darshan, alla parafarmacia in più, insomma, avevamo da fare, dai. Poi Decathlon, ho visto queste maschere, però non mi hanno ispirato proprio per niente. Infatti mi tengo i soldi, mi uso la maschera nuova che avevo già, normale, che puoi fare anche immersioni con quelle. Ok, poi da Forbice ci andrò lunedì o quando capita per le pinne, perché mi stanno rovinando forte. Sì, ma se vuoi sì, dai, mi sto pigliando un aperitivo anche. Pigliati un aperitivo anche tu che ti viene più fame. Stavo parlando con mamma. Ieri le ha scocciato Natalino perché dice non c'è mai nessuno, e Natalino, in estate siamo. Claudio quando può entra, quando non può non entra, in base ai turni, in base alla stanchezza, in base all'infinità di fattori che sono imponderabili. Io quando sono al baracchino leggo, che ne so, faccio altro, guardo la TV, se non vivo di baracchino. E quando ne ho voglia vi faccio per chiacchiere, è tutto lì. Io non sono molto giorno a casa, caro mio, da volte sono stanco, mi hai stato io. Mi fanno una segnale a fare due prove, la radio devo provare, ho sul 47 e poi sono tornato qua, non capisci. Lo so, chiamato, non c'è nessuno, io ancora niente, adesso ancora qualche oretta ce l'ho, no? A metà giugno io la radio la tengo spenta, no? Lo passiamo a lavorare, non lo passiamo alla radio, brucio l'olio anche letto, sono a due voci, stiamo finendo, facendo a destra, a sinistra, e sto andando anche io, non è che posso stare sempre in radio. Quando mi voglio amanesco anche in moto, andare un po' d'aria, a svagarmi un po', no? Io mi alzo alle 5 la mattina. Tutti i santi giorni, compresi sabato e domenica, ho lavorato ieri che era festivo, non è che devo passare per chi, perciò quando ho voglia, c'ho tempo, ecco, se no pazienza, che vuoi ti faccio. Poi mi pare ieri, era ieri se non sbaglio, c'era anche il gruppo di Alghero, era ieri o l'altro ieri? No, ieri era, ma c'era propagazione, cioè mi coprivano quelli di Alghero, mi. Cioè, la propagazione mi ricopriva, e quindi a malapena sentivano noi e io non sentivo loro. Poi ha salutato anche Eugenio, che anche lui è operato di lavoro, quindi ha detto che non coincidono gli orari per entrare in radio, come vedi. Ma infatti, se non coincidono gli orari, pazienza, cosa ti faccio? Io ti ripeto, sono un impegnato. E quindi, se poi poca voglia non stare qua dentro col caldo, questa è la radio, se capita, due chiacchiere me le faccio, però non è l'inverno che ti piace stare a casa, eccetera, capito? E oggi dovevamo uscire, fare una passeggiata, scendere a Porto, se invece ce l'ha. La fine di cerchio, quindi io non vado da nessuna parte, non sto a casa, non mi riprovo, sono impegnato a lavoro anche i sabati e le domeniche, perciò gaiesta, ecco così. Natalino non si deve rivelare, purtroppo la radio è fatta di alti e bassi. No, magari a dirare no, ma adesso non vai mai nessuno, cioè, allora magari ti sta guarendo un poco tu. No, ma non si toglie nulla, l'antenna deve rimanere, la radio deve stare qua, quando si può si parla. Io ho detto fai qualche DX anche, ieri c'era Fabrizio Mascherato, anche lui stava facendo qualche DX sui canali alti, ovviamente arrivavo più forte io. Vabbè, lui aveva un dipolo, io ero in verticale con un centinaio di watt, mi ascoltavano un po' meglio le persone, dai. Poi dipende, il dipolo può orientare solo in un punto, in una direzione, mentre io sono omnidirezionale. E c'erano italiani, prima c'erano italiani, poi si compaiono dei botto di italiani e appare la propagazione più lunga, tipo tedeschi, francesi, lo sai, proprio si è chiusa per l'Italia e si è aperta per fuori. E lì non mi interessava parlare, c'era uno svizzero, minchia, c'era uno svizzero con un, non so cosa, che radio era, un 940, c'aveva una quadricubica o una cubica, e l'avevo puntata verso di noi, arrivava oltre il 9, lo sai, a momenti. E anche non visto lì, stavo io pagando un po' anche a KF, c'era sempre anche la preparazione 50 mega, anche poco fa stavo ascoltando. Non ho più voglia di fare nessun tipo di attività, non mi fa niente, perché io sto ascoltando un 50 lo stesso, non mi fa niente, vero, la propagazione ce n'è, ma anche adesso ce n'è, se vai sui canali alti c'è la propagazione lo stesso, però tu, diciamo, metti il vostro a canali, tu non ho passato la voglia di usare tutto quello che ho, perché quando lo hai poi te ne prendi, allora rimane tutto lì, rimangono spenti, ogni tanto li accendo, dici c'è tutto qua, quello che ho voglia di fare è giusto che faccio, poi a qui va. Natalino, e ieri poi ho visto che è uscito con Gianni per una boccata d'aria, quindi anche lui esce, fa, perciò non è che sta sempre a casa, cosa mi fai a casa? Natalino. Cosa mala sorte volete? No, l'altro ieri era con Gianni, ieri no. Ciao Natali, visto che c'è, lui è sempre all'ascolto. E giustamente qua, io quando potrò andrò al mare, tanto mia mamma vuole andare al mare, a lei piace, quindi saremo sempre in pari, mi. Riprendi Natali. Cazzo, tu e questo ratta ragazzo, questo scassa capasisi. Allora. Voglio vivere lì, ecco quello che io ho detto, sono impresinato, se no finiscono su, adesso tu vuoi che dovrò venire, mio genere, la partita mi sembra che non ci viene perché ho impegnato voci, io gli arrovando, tu non rimani nuovi, c'è la partita, siamo mille luci. Allora, che si dice? Che si dice? Che io non ci posso andare nei canali archi, né nulla. Cazzo, cosa posso andare? Improvvati, bussi sì al massimo, se no cazzo, se metto tutto a mano fa qua, un due a mano. No, puoi anche salire. Io l'altro giorno mi ha sentito Marco, poi sono sceso qua. Non c'è più nessuno. Stavo provando la radio a Massimiliano. Ho fatto le metatore nuove, quindi stavo provando lì, ma sono rimasto 10 minuti per loro, poi sono tornato qua, non avrebbe nessuno. È una furtiva, se abbiamo fatto chiacchiere anche nel 45, una nuova propagazione. Già va bene lo stesso, anche così per fare due chiacchiere. Vabbè, mi sembra che ho registrato un break, fa entrare Marco. Avanti il break. Guarda, io sentivo poco fa, era nascosto, sentivo rumori, rumorini, rumoroni, mi sono scocciato, ho messo lo squelciato, ho messo lo squelcia a 20 di valore, qua è digitale, non so, non voglio sentire nessun rumore di fondo, Poi c'è un ronzio da ieri, tutti i canali, è stifero, stifero, quelli bassi è un problema, ogni tanto qua mi sa già attaccato e vabbè, è nata lì, potevi andare, non c'entra a parlare con camionisti di fuori, c'era Claudia Massimiliano, Luigi Burtoge e poi che altro c'era, poi ho salutato io, poi sono andato via subito, potevi andare lì, potevi fare di ex, cosa vuol dire, ieri mi ha detto, ma se faccio di ex poi non lo entro più, perché? Io come vedi faccio di ex, quando non c'è nessuno qua, quando c'è qualcuno qua posso tornare qua, bisogna essere versatili, capito? Ma non posso alzare la potenza, allora prima così, non posso fare nulla, e se no, già io penso che lo disegno anche così, non c'è parte, non abito più nulla, rapido bravo. Appunto, lo disturbi anche con le vatte, quindi disturbare per disturbare, buoni tutta la manetta fatti di ex tutti i pinni. Tanto la banda laterale è anche stretta come missione, più stretta della M, e quindi magari disturba anche meno, anche con più vatte. Alla fine, lui vuole risolverla, si mette a posto l'antenna, non vuole risolvere, se la piglia in... Com'è che ci dice Claudio? In come le possa ma... Mi piace troppo quella cosa lì, non so pronunciarla perché... però rende molto, là. E dico, ci vuole molto a pronunciarla, l'ho inventata io, in come ti possa ma... Anche lì non l'ho inventata allora. Lo legge due giorni dopo, seppure, quindi non, se telefoni non risponde, e allora cosa vuol fare? Entrerà in radio quando può, e oggi era bella me, però ripeto, dovevamo fare qualche spesa, cosa anche per le medicine, un po' di tutto. Domani grande festa a Porto Torres, quindi noi pubblico andiamo alle 7:30, andiamo, se guardiamo le bancarelle, se dobbiamo comprare qualcosa piccola, la compriamo, ci pigliamo pure il panino, quelli la salsiccia, il salsiccione. Ah, ma ci sono pigliosi. No, e beh, ce ne sono tanti, certi sono, sai, quelli hanno la, non hanno il camionato, hanno proprio le griglie basse basse, altezza d'uomo, no, altezza di, sono tutti tatuati, hanno quei tatuaggi sul braccio tipo galera, quelli blu tutti storti. No, abbiamo bello due, domani, è iniziato da ieri, venerdì, sabato e domenica, lunedì non c'è più niente, penso che non faccio neanche più la cosa, come si chiama, la rostita di pesce come facevano tutti gli anni, non so, comunque, metto mio fratello, già la venerdì c'erano le mattarelle, quindi, e vabbè, c'è Luigi anche. Vabbè, oggi domani, no, niente fiamme, né mancarelle, né nulla, se non la famiglia dei garibidi, vai Natali. Eia, questo Marco poi ieri ha detto che è entrato, è andato a mangiare, non si è più inteso, almeno poteva uscire con me con Gianni a farci un giro, e un arrivata a Pignara, Lo sai che dopo pranzo mi è venuto l'abbiocco, mi sono addormentato in camera mia, mi sono svegliato alle 9:30 passate di sera, lo sai, proprio abbiocco di lusso. Non lo posso immaginare. Adesso vado a mangiare così me lo tolgo da mezzo. Non sarò più inciso. Oh, là, sentite là, non lo stavo parlando con lui Gianni, lo facevo girare. Sì, sì, certo, sì. La tua voce è quella, niente a fare. Già funziona, già funziona. La Lucia ha detto, va a mangiare, ma 8:30, ma lui quando va a mangiare viene la biocco, capite? Adesso si è preso l'aperitivo, si è preso l'aperitivo, poi si inizia a mangiare e finisce che è mezzanotte di mangiare. Domani va via Burugani, va via Gianni nel trasportino, no? E ce ne siamo scesi lì a Porto Torre, dove abbiamo fatto un giro, c'era anche un bel fresco. Ma anche ieri siete usciti? Ieri siamo usciti, se ti sto dicendo che tutti mi siamo andati a mangiare, no, non ti sei ben inteso. Pittino, siamo usciti ieri, allora. Sì, no, perché l'altro ieri siete andati da Ocean. Ah, no, no, io no, ero nel mondo dei sogni a Parigi. Lo sai, mi viene, sai, quando sentirò lo stomaco pieno, il sangue fluisce lì, fluisce poco la testa, mi sono trascinato in camera mia, mi sono buttato sul letto, boh, fino alle 10:20 mi sono svegliato di ieri notte. Che bello dormire però, dormire, sognare, serve a evadere dalla realtà. La cura del sonno stai facendo, che? Sì, troppo dormo, anche la mattina, sono troppo a letto, così a dormicchiare, dormivegliare, non va bene però. Sono andato da Decathlon per quella maschera da, chiamiamola da sub, che non è da sub, ma l'ho indossata, non mi ha ispirato nulla. Secondo me non tiene l'acqua per il mio viso, boh. Lui non riesce a creare il vuoto, lo sai? Perché quella specie di boccaglio che ha sopra, non riesce a tapparlo perché sai, aspirando, se fa il vuoto vuol dire che va bene per il tuo viso, no? Ma lei non riesci a tapparlo del tutto, è fatto in modo strano. Infatti ho detto, oh, non mi fido, mi tengo i 30 euro, me li mangio, guarda, in pizzeria. Però non ne ho comprato. No, vuol dire che non va bene se non ti si attacca al viso la maschera. Non l'ho detto. E sai cos'è? Un profilo strano. Quella riesce a capire se va bene solo se riesce a fare il vuoto. In acqua andrebbe provata, mi bisogna chiederla a qualche turista, perché c'è gente che la usa, lo chiedomi, posso provarla un attimo, e vedo se entra acqua. Se per esempio ci sono solo due taglie, la SM, che è la medio piccola e la medio grande, due sono le taglie, chiedo di provarne una, se non va bene la medio grande vuol dire che va bene la medio piccola, o viceversa. O lasci che la conformazione della tua faccia non vada per niente bene a quella maschera. Io di chi se non avevi biliardo. Ma quando ti provi con la maschera devi cercare di tirare bene le ali sumi, perché tu non c'hai la faccia come ci abbiamo noi. Qui c'è la faccia un po' diversa, capito? Se c'è un pipistrello, ma ti vai a pulirti la maschera. Eia. C'è il muso da pipistrello, anche quello è vero. E devi cercare di combaciare bene, hai capito? Prendi bene le misure. Ma non le fanno le maschere da sub da pipistrello. Il pipistrello va in aria, non va in acqua. Dimmi lì, sono a Zurigo. Oh, io ho visto in realtà pipistrelli beccare insetti sulla... Sai, insetti caduti sulla superficie dell'acqua, non nei fiumi, nei laghi. Ho visto pipistrelli ripresi di notte che beccavano l'insetto al volo con le zampe. Cidiare pipistrello di notte, ragazzi, hai capito? A me mi fa schifo. Io ne ho visto un paio, ce n'erano. Sono entrato in un tunnel praticamente al buio, capito? Non me ritardi sono orribili. Invece io nella conta WhatsApp ho messo il pipistrello volpe, che ha la faccia pelosetta, non sembra più una volpe, infatti si chiama pipistrello volpe. I ritardi sono brutti, sono orribili, orribili. Io mi ricordo quando andavamo con un amico in miniera, andavamo con le forche nelle miniere, era pieno di pipistrelli, pieno, facevano schifo, proprio brutto di faccia, orribile. Ma a me è un sciuringo, c'ha la faccia del topo con le ali, bruttissimo, era attaccato a questi tubi, infatti manco bucato un altro, intanto mio collega, tu fa una cosa, bene, no, che tu te, Rugasco, vai, fai tu la manovra, perché, ma chi mi diceva che pipistrelli a me va di schifo, non ci sono entrato, ma sono sceso. Avanti Natalia. Infatti sono dei tupi con le ali, i pipistrelli. Ha la faccia da poco, no Natalia? No, peggio, molto più brutto. Certo, ma brutto, mamma mia, che era. Sì, quello sardo è orrendo. È proprio un vampiro. Ma Natalia, ma tu non sei andato al mare, non ti stai muovendo, no? Niente. Ah no, ma avevi detto che. Insomma, avevi detto che hai pagato l'assicurazione e poi non ce n'è altri. Non ce n'è altri, no. Tutta la mia azione si era appoggiata all'assicurazione, Marco, perché quei soldi, io contavo su quei soldi che mi dovevano arrivare. Io invece a bisogno non me ne mandano, i bastardi. Adesso per quella moto, se me la assicureremo, c'è un altro problema. L'assicurazione di quella moto che era ferma in garage, ma scusa, l'assicurazione, la revisione scadeva a marzo, a febbraio a marzo. Cosa succede adesso? Che io, anche se l'assicuro, guidando non potrei nemmeno andare alla revisione, perché la revisione è scaduta. O ci vai 4-4, perché tanto è... dove c'è Eurospin, a me? Eurospin viale Polo Torres, sì, Mimì, quella via che c'è lì dietro. Quindi in realtà è vicinissimo, mi fiderei ad andare, però è un casino, non so se me la fanno revisionare oltre la scadenza, no, che casino, cioè, cosa succede? Niente le sapete. Non ti fanno un cazzo se gli dici che stai andando a fare la revisione, ce l'avevo ferma in garage, siccome mi sono accorto che è scaduta la sto già portando. Chiedi l'appuntamento prima, e tu al limite ti vai a rilasciare una ricevuta da quello della revisione, e con quella vai a farti la revisione. Non ti basi in nulla, perché non la puoi portare? Ce la stai portando a fare la revisione. Ma sai cos'è? Era già scaduta. Tipo 2 mesi fa è scaduta, anche di più. Quindi io nel momento in cui, anche se la puttana, nel momento in cui esco dal garage e vado a fare revisione, è scoperta. Vabbè, controlli lì, non ce n'è lì, quello è vero. No, più che altro mi interessava sapere se il revisore mi può fare storie, perché era già scaduta. E ma era ferma in garage, glielo dico, non avevo soldi per l'assicurazione. Non credo ci siano problemi, no? Claudio, niente, sai. Ma per che cosa? Tu praticamente mi hai assicurato la moto per spostarla? No, la dovremmo assicurare fra quando arriveranno i soldi, insomma fra un po' di tempo, no? Però era già scaduta la revisione all'inizio dell'anno, tipo febbraio-marzo. Non credo che facciano storie, no. Il revisore, l'officina per la revisione, non fa storie, no. Assolutamente no, la moto è ferma, io la revisiono quando mi pare, mi piace. L'importante è sapere forse l'ordine, non circolare. Quindi, come ho detto, fai prima l'assicurazione, poi te la rischi, noi la fai subito revisionare. No, l'officina non ti dice niente. E forse l'ordine, se ti trovano, capito? Diceva che stanno a fare la revisione, forse ti salvi, dici l'assicurazione, guarda, l'ho fatta oggi. E perché la ferma, stanno andando a fare la revisione, se vuole. Si mette appresso, però dove c'è per l'imbecille, capito? Infatti, se trova l'imbecille gli ritirano il libretto e gliela fanno fare la motorizzazione, poi, capito? E comunque lì quel tratto non ne trovi, perché io devo fare, guarda, via le Mameli, via le San Francesco. via Corso Trinità, Cavalcavia, lì inizio via Reparatore, poi giro lo spin e sono praticamente arrivato. Saranno 50-100 metri in quella via dietro lo spin, no? Quindi non è un percorso pericoloso quello, dai. Però a norma e regola, siccome non è coperta, dovrebbe essere portata da un carattrici, pensa, dovrebbe essere portata da un carattrici, perché era già scaduta, pensa a quanto sono fiscali. No, ma guarda, solo la stradale è così fiscale, solo la stradale, ma i carabinieri non sono così fiscali, dai. Sei anche preso appuntamento, non ti fanno storie. Dici, sto dando la revisione, dai. Io mi faccio troppe paranoie, c'è gente che gira privo di assicurazione, privo di revisione, se ne frega, figurati. Io mi devo fare questi problemi. Lui adesso mi sa che è obbligatorio prenderlo l'appuntamento, quindi tu vai proprio quel giorno a fare la revisione. Prima informati, vai a dove fai la revisione e glielo chiedi. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Vai e vai la revisione, una volta che è fatta si regola. Sì, sì, anche perché lì, Natalia, lì si va per appuntamento, non è che vai lì e la fai. Obbligatoriamente lui vuole l'appuntamento, dice a tale ora di mattina o di sera, venga che la facciamo, capito? Infatti, sai come ti ho detto io a tutti i dire. Vai, Billy, l'appuntamento. Quando vuoi dire che va l'appuntamento vuol dire che ti sentirà di faccia e ti dovessero fermare. Anzi, ti vuole il burrufatto e ti va a portarla. E ti va a dirsi agli inchini, ma se è l'appuntamento stai andando lì, non c'è manco bisogno. Sì, lo so. No, ma io mi faccio troppe paranoie, Natalì, lo sai. C'è gente che esce priva di patente, priva di assicurazione, priva di revisione, se la futti, capito? Io voglio stare sempre nella legalità, anzi non vedo l'ora di assicurarla e di revisionarla, così sono a posto per altri 2 anni. Signori, è arrivata la pappa, riprendete voi. Ok, io sono senza libretto e senza un cacchio stamattina girando, perché me ne sono dimenticato che c'avevo il libretto e tutto nel borsello. E io ho detto che mamma ha fatto la pasta all'arrabbiata, ma più arrabbiata di così, è piccantissima. Avevo anche bruciato di stomaco io, ieri e stamattina, figurati, mi vuole uccidere mamma. Ma anche la pasta all'arrabbiata già lo sai cosa farmi, che dopo devi andare in via del Portotone, se dopo più tardi. E non lo sai cosa fa la pasta all'arrabbiata. E cosa fa? Io ti voglio dire morruidi, oppure devo andare in posta da quello donne. Ah, fa a drizzare, un po' sì. Sei qua. No, ma io faccio tutto a mano, c'è Maria Mano che mi aiuta. Non spendo neanche niente. Thank you.